Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Uccidere ogni singolo pidocchio quando se ne hanno addosso centinaia è un affare serio. Le bestiole sono piuttosto dure, alla lunga diventa noioso quel perpetuo schiacciarle con le unghie. Perciò Tiaden ha pensato di assicurare, mediante un filo di ferro, il coperchio di una scatola da lucido sopra una candela accesa. Si gettano semplicemente i pidocchi in questa padella di nuovo genere, scoppiano ed è finita. Sediamo in cerchio, la camicia sulle ginocchia, il torso nudo al sole, le mani intente al lavoro. Hai una varietà particolarmente distinta di pidocchi che sulla testa portano una croce rossa e perciò sostiene di averli portati via dall'ospedale di Toroit e che provengono niente meno che dalla persona di un colonnello medico. Vorrebbe anche utilizzare il grasso che si va raccogliendo nel coperchio per ingrassare gli stivali e ride mugolando per mezz'ora di questa elegante freddura. Ma non ha successo, siamo troppo preoccupati di un'altra faccenda. La voce che correva si è verificata. È arrivato Himmelstoss. E qui da ieri. Abbiamo già udito la sua voce ben nota. Si dice che in patria abbia cercato di educare un po' troppo energicamente alcune giovani reclute, fra le quali a sua insaputa il figlio d'un alto funzionario, e ci si è rotto le corna. Qui troverà da stupirsi. Tiaden sta meditando da ora tutte le risposte che gli potrà dare. Haie contempla con compunzione le sue parole e mi fa l'occhiolino. La grande sculacciata del sottufficiale è stato il punto culminante della sua esistenza. Mi ha raccontato che talvolta di notte ne sogna. Kropp e Müller confabulano tra loro. Kropp si è rimediato una scodella di lenticchie, chissà dove, probabilmente alla cucina degli zappatori, e Müller vi sbircia avidamente, ma sa dominarsi e domanda: Albert, che faresti se ora ad un tratto scoppiasse la pace? Ma che pace, non esiste pace, mormora Kropp. Beh, ma se scoppiasse davvero, insiste Müller, che cosa faresti? Via di volata, risponde Kropp. Naturale, ma poi prenderei una sbornia, fa Albert. Non dir fesserie, parlo sul serio, ma anch'io che altro vuoi fare? Katz si interessa alla questione, esige da Kropp la sua parte di lenticchie e, ottenutala, medita lungamente e infine conclude: la sbornia sta bene, ma poi via col prossimo treno e dritti a casa. La pace, pensate un po', la pace. Fruga nel suo portafogli di tela cerata e ne estrae una fotografia che mostra intorno con orgoglio. La mia vecchia, poi la ripone con cura e sacramenta. Porca guerra pidocchiosa. Tu puoi ben dirlo, lo interrompo. Hai il pupo e la moglie. Già, e devo pensare a dar loro da mangiare. Noi ridiamo, il mangiare non ti mancherà, Kat, alla peggio andrai a requisirlo. Ma Müller ha fame e non è ancora soddisfatto e perciò sveglia Haie Vestus dai suoi sogni di cazzottature. E tu, Haie, che faresti se oggi venisse la pace? Ti dovrebbe dare una tribiata in quel posto, dico io, per insegnarti a tirar fuori queste storie. Dove diamine vai a cercarle? Vallo a domandare al... risponde Müller laconico e si volta nuovamente a Haie Vestus. Ma per costui una siffatta domanda è troppo difficile, sicché scuote il testone bitorzoluto. Vuoi dire se non ci fosse più la guerra? Precisamente, come sei fino? Allora ci sarebbero ancora le donne, eh? E Haie si lecca il muso. Già, anche quelle, Corpo d'un diavolo, grida Haie, e la faccia gli si illumina tutta. Che cosa farei? Mi prenderei un bel pezzo di ragazza, una specie di granatiere con molta polpa addosso, e via a letto, pensate, un letto vero, con l'elastico. Ragazzi, per 8 giorni non metto più i calzoni. Silenzio generale. L'immagine è troppo stupenda. Già ne abbiamo i brividi sulla pelle. Finalmente Müller si domina e domanda. E poi? Pausa. Haie dichiara alquanto imbarazzato. Se fossi sottufficiale, resterei nell'esercito e metterei la firma. Haie, che ti gira? Dico io. Ma lui, bonario, hai mai provato a scavar torba? No. E allora provatici un poco. E così dicendo, estrae dagli stivali il cucchiaio e lo affonda nella scodella di Albert. Peggio che piantare reticolati nella champagne non può essere, ribatto io. Ma Haie mastica un poco e poi ghigna. Però dura di più e non ti puoi imboscare. Ma ascolta, per Dio, a casa si sta meglio, Haie. Dipende. E si immerge in una specie di meditazione silenziosa. Si può leggergli in viso che cosa pensa, povero diavolo. Una misera capanna in palude, un lavoro pesante nell'afa della radura dall'alba al tramonto, poca paga, il vestito sporco da badilante. Sotto le armi in tempo di pace tu non hai fastidi, ci confida. Ogni giorno il tuo rancio, altrimenti ti dai malato. La tua bella branda, ogni 8 giorni biancheria pulita come un signore. Fai il tuo servizio, hai la tua bella divisa e la sera libera uscita e vai all'osteria. Hai straordinariamente fiero della sua idea e ci si appassiona. E quando hai fatto i tuoi 12 anni, hai la tua brava pensioncina e ti fanno guardia campestre. E allora avanti, in giro a spasso tutto il santo giorno. Qui l'amico si gonfia di soddisfazione. Figurati un po' come ti trattano. Qui un bicchierino, là un mezzo litro, capirai, con la guardia campestre tutti vogliono essere in buona. Ma tu non sarai mai sottufficiale, Haie. Interrompe pacato Kat. Haie lo guarda colpito e tace. Nella sua grossa testa passano ora le chiare serate d'autunno, le domeniche sulla brughiera, le campane del villaggio, i pomeriggi e le notti in compagnia delle serve, le torte di grano saraceno costellate di lardo e le ore passate a chiacchierare davanti alle grandi tazze di birra. Soffocare ad un tratto tante belle fantasie gli riesce penoso, perciò brontola arrabbiato. Quante stupidaggini mi fate dire. Infila la testa nella camicia e si abbottona la giubba. E tu, Tiaden, che cosa faresti? Interroga Krop. Ma Tiaden non ha che quel chiodo. Stare attento a Himmelstoss che non mi scappi. Il suo ideale sarebbe probabilmente di averlo lì chiuso in una gabbia e dargli addosso con un randello ogni mattina. Al tuo posto, dice a Krop, farei il possibile per diventare tenente e allora lo ridurrei da fargli pisciare sangue. E tu, Dethering? Interroga Müller, che sembra nato maestro di scuola con quella sua mania delle domande. Dethering è parco di discorsi, ma su questo tema risponde. Guarda in aria e dice una parola sola. Arriverei giusto in tempo per la mietitura. Si alza e se ne va. È sempre in pensiero, poveraccio. La moglie deve mandargli avanti la fattoria. Gli hanno requisito 2 cavalli. Ogni giorno, nei giornali che ci arrivano, cerca soltanto se nel suo angolo di Oldenburg è piovuto, che altrimenti i fieni non si possono portare a tetto. Proprio in questo istante compare Himmelstoss e si avvia diretto verso il nostro gruppo. La faccia di Tiaden si cosparge di chiazze livide e per dissimulare la sua eccitazione si corica a lungo disteso sull'erba e fa finta di dormire. Himmelstoss è alquanto irresoluto, il suo passo rallenta, tuttavia viene verso di noi. Nessuno fa cenno d'alzarsi. Krop lo contempla con sincero interesse. Ora sta dinanzi a noi e aspetta. E poiché nessuno parla, si decide lui. Ebbene? Passano alcuni secondi. Visibilmente l'uomo non sa come comportarsi. L'istinto lo porterebbe a farci passare senz'altro un brutto quarto d'ora. Tuttavia sembra aver già imparato che il fronte non è la stessa cosa che la caserma. E però fa un nuovo tentativo. Non si rivolge cumulativamente a tutti, ma ad uno solo, sperando così di ottenere più facilmente risposta. E poiché Krop gli sta più vicino, gli fa l'onore di dirgli: «Ebbene, siete qui anche voi!» Ma Albert non gli è amico e risponde secco: «Da più tempo che lei, mi pare!» I rossi mustacchi tremano. «Non mi si conosce più, dunque?» «Certo», risponde Théoden, socchiudendo gli occhi. Himmelso si rivolge a lui. «E questo è Théoden, è vero?» Théoden alza la testa. «E tu sai che cosa sei?» Himmelso è sconcertato. «Tu? Da quando in qua ci si dà del tu? Non abbiamo mai dormito insieme lungo le strade, che io sappia!» Egli non sa come uscire dalla situazione in cui si è ficcato. Certo, non si aspettava una così aperta ostilità, ma per il momento si tiene ancora in guardia. Qualcuno deve avergli rifischiato la stupidaggine delle fucilate alle spalle. La frase sul dormire lungo le strade ha tuttavia il potere di rendere caustica l'ira di Théoden, il quale risponde pronto: «No, là ci hai dormito tu solo!» Himmelstos comincia a bollire, ma Théoden lo previene perché ha una parola nel gozzo e deve cacciarla fuori. «Lo puoi sapere che cosa sei tu? Una porca carogna sei! È un pezzo che te lo volevo dire!» Anche Himmelstos ormai è seccato. «Che ti piglia, cane rognoso, sudicio cavatore di torba? Alzatevi e mettetevi sull'attenti quando vi parla un superiore!» Théoden ha un gesto grande. «Riposo, Himmelstos, potete ritirarvi!» Himmelstos è un regolamento di disciplina in furore. L'imperatore in persona non potrebbe essere più gravemente offeso di lui. Urla: «Théoden, vi do l'ordine di alzarvi!» «E che altro ancora?» domanda Théoden serafico. «Volete obbedire al mio comando o no?» Théoden risponde disinvolto e perentorio, citando senza saperlo un motto immortale. E in pari tempo dà aria al proprio di dietro. Himmelstos se ne va di corsa, gridando: «Verrete davanti al tribunale di guerra!» E lo vediamo scomparire dalla parte della fureria. Haie e Théoden danno in una omerica risata da contadini. Haie ride a tal segno che si disarticola la mascella, così che ad un tratto rimane a bocca aperta e bisogna che Albert gliela rimetta a posto con un pugno sotto il mento. Cat invece è preoccupato. Se fa rapporto le cose si guastano. «Credi che lo faccia?» domanda Théoden. «Senza dubbio», dico io. «E il meno che ti possano affibbiare sono 5 giorni di rigore», dichiara Cat. Ma Théoden non si scompone per così poco. «Benone, 5 giorni di rigore sono 5 giorni di riposo. E se ti mandano in fortezza?» interroga quel pedante di Müller. «In tal caso la guerra per me è finita, almeno finché resto là». Gli va bene tutto a quel Théoden. Per lui non ci sono pensieri. Ora si squaglia con Haie e con Leer perché non lo trovino al primo scoppiare della tempesta. Ma Müller non ha ancora finito e riprende con Krop: «Dunque, Albert, se davvero ora ritornassi a casa, che cosa faresti?» Krop ormai è sazio di lenticchie e perciò più arrendevole. «Quanti si sarebbe ancora della nostra classe? Facciamo il conto. Di 20 che eravamo, 7 sono morti, 4 feriti, 1 al manicomio. In tutto resteremmo una dozzina. 3 sono diventati tenenti», dice Müller. «Credi tu che si lascerebbero ancora strapazzare da Cantorek?» «No, non lo crediamo. E neanche noi lo sopporteremmo». «Mi parli degli elementi drammatici nel Guglielmo Tell», ricorda Krop e mugghia contento. «Quali scopi si prefissero i poeti di Gottinga?» incalza Müller a un tratto severo. Quanti figli ebbe Carlo il temerario, replico io freddamente. Lei, Boima, non concluderà mai nulla nella vita, guaisce Müller. Kropp vuole sapere la data della battaglia di Zama, ma io ribatto. A lei manca ogni serietà morale, signor Kropp. Sieda, le do un 3. Quali erano, secondo Licurgo, i principali doveri del cittadino? Mormora Müller, aggiustandosi sul naso un paio di lenti immaginarie. Quanti abitanti fa Melbourne? Replico pronto io. Come si può vivere senza sapere di queste cose? Che cosa si intende per coesione? Ricomincia lui. Di tutta codesta roba molto non ricordiamo. Vero è che non ci è servita a nulla. Nessuno invece ci ha insegnato a scuola come si accenda una sigaretta sotto la pioggia e il vento, come si faccia prendere fuoco a un fascio di legna bagnata, oppure anche come convenga cacciare ad uno la baionetta nella pancia, perché se si pianta fra le costole vi rimane conficcata. Dice Müller, pensieroso, bisognerà pure tornare sui banchi di scuola. Quanto a me ritengo la cosa impossibile. Tutt'al più ci faranno fare un esame speciale. Anche per quello ti dovrai preparare. E poi se lo passi, a che ti giova? Essere studente d'università non è una cosa molto brillante. Se non hai soldi in tasca non ti resta che sgobbare. Sì, ma un po' meglio si sta. Ad ogni modo è positivo che quello che ci hanno imbeccato a scuola sono tutte scempiaggini. Kropp riassume così il nostro stato d'animo. Come si fa a prendere sul serio quella roba dopo che si è stati qui fuori? Ma una carriera la dovrai pur scegliere, obietta Müller, come se fosse Kantorek in persona. Albert si pulisce le unghie col coltello. Ci stupisce vederlo così raffinato, ma è soltanto meditabondo. Infatti un momento dopo getta via il coltello e dichiara: ecco come stanno le cose. Kat, Detering e Haie torneranno al mestiere perché lo avevano già prima, così anche Himmelstos, ma noi no. Noi dovremo impararne uno dopo aver fatto questo qui, e indica il fronte. Bisognerebbe vivere di rendita e andare a stare tutto solo in un bosco, dico io, ma subito mi vergogno di tanta smodata ambizione. Chissà come andrà quando torniamo a casa, si chiede Müller preoccupato. Kropp alza le spalle. Non so, prima bisogna tornare, poi vedremo. In realtà nessuno di noi ha un'idea. Io non ho voglia di far nulla, dichiara Kropp stanco. Che serve? Un giorno o l'altro crepi, e allora? Già intanto non credo che torneremo. Quando ci penso, Albert, dico io, dopo un po' sdraiandomi sulla schiena, vorrei, quando sento parlare di pace, che la pace ci fosse davvero. Vorrei fare qualche cosa di straordinario, tanto il solo pensiero mi dà alla testa, qualche cosa, capisci, per cui valga la pena di essere stato qui tanto tempo nel fango. Ma non so cosa immaginare. Quello che mi appare nell'ordine delle cose possibili, professione, studi, stipendio, eccetera, mi dà la nausea, tutta roba che c'era già prima. Ne ho schifo. Non trovo nulla, Albert. E improvvisamente tutto ciò mi sembra così vuoto e desolante. Anche Kropp ci pensa. Sarà un affare serio per noi tutti. Che se ne diano pensiero qualche volta laggiù in paese. 2 anni di sparatorie e di bombe a mano. Non puoi spogliartene come ti togli una camicia. Siamo d'accordo che è così per tutti quelli in ogni parte del mondo, che siano nelle nostre condizioni, un po' più, un po' meno. È il destino comune della nostra generazione. Albert trova la formula. È la guerra che ci ha resi inetti a tutto. Ha ragione, non siamo più giovani, non aspiriamo più a prendere il mondo d'assalto, siamo profughi, fuggiamo noi stessi, la nostra vita. Avevamo 18 anni e cominciavamo ad amare il mondo, l'esistenza, ci hanno costretti a spararle contro. La prima granata ci ha colpiti al cuore, esclusi ormai dall'attività, dal lavoro, dal progresso. Non crediamo più a nulla. Crediamo alla guerra. Thank you.